tutti questi anni io non smetto di guardarti, qualche volta ancora bocca aperta. Non finisco di capire, non finisci di stupire, come non dovesse mai finire. Non nascondermi i difetti, mentre a me piacciono tutti, ma non te lo vuoi sentire dire. E ti guardo mentre sogni, e mi tocca stare fuori, e mi tocca solo indovinare. Dopo tanti anni un giorno, quando il mare sembra calmo, vieni fuori ancora tu, con quel nome da straniera, da chi è sempre stata sola ed un po' non deve più, perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. E quegli occhi li conosco, li ho visti spesso nudi, ma non si vedeva mai la fine. Il tuo cuore accelerato, le pupille dilatate, e non mi restituisci il cuore. Dopo tanti anni un giorno, quando il vento sembra fermo, vieni fuori sempre tu, con quel nome da straniera, da chi riesce a stare sola, ma da un po' non deve più, perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. L'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire. Tu sei lei, come sei, inesorabilmente, e mi hai salvato tante volte da qualche tipo di altra morte, andando dritta sulla verità. E mi regali un altro giorno in cui sembra tutto fermo, ma tutto si trasforma, tutto si conferma, e lasci in giro il tuo profumo, come a dirmi io ci sono, come a dirmi sarò sempre qua, perché tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. Tu sei lei, tu sei lei, e lo sei stata sempre. Se l'universo intero ci ha fatto rincontrare, qualcosa di sicuro vorrà dire.